Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo dell'inflazione, ma non solo, delle tensioni protezionistiche. Oggi se ne è molto parlato a Bruxelles, dove si teneva l'Industry Day a livello europeo. Dichiarazioni varie, segnalo anche quella dell'ex Presidente della Commissione Europea Romano Prodi, che ha detto insomma l'Europa può essere che venga stimolata a rialzare la testa dopo gli attacchi che sta ricevendo da Trump. Possibile che la grande paura di scomparire la faccia ripartire. Beh, insomma, se non serve neanche Trump e le spinte dei partiti anti-Europa, non capiamo che cosa possa servire all'Europa per trovare uno scatto di orgoglio e non vivere in maniera così ragionieristica, come spesso abbiamo lamentato. Parleremo di Trump anche per un altro motivo, perché è uscito il dato del PIL americano nell'ultimo trimestre 2016, più 1,9%. Il dato è sotto le attese, visto che aveva fatto il 3,5% di crescita nei trimestri precedenti. Però di Trump oggi si parla anche molto, perché dopo l'annuncio che abbiamo ricordato ieri di un aumento delle spese militari per 54 miliardi di dollari, un aumento storico, che andranno levati agli aiuti americani all'estero. E tra l'altro faccio notare che questo, lo dico nella maniera più obiettiva possibile, Trump piace molto ad alcuni elettori. Faccio notare che le prime misure che abbiamo visto sono state di una grossa agevolazione a Wall Street, e ne abbiamo parlato, per quello che riguarda la legge già molto morbida di suo, varata da Barack Obama dopo Lehman Brothers, dopo il crack della finanza americana in primo luogo nel 2008, e Trump vuole ammorbidire anche una legge già morbida, con un risparmio complessivo per Wall Street di 100 miliardi, ecco perché Wall Street ha festeggiato e non solo. Anche questa indicazione di 54 miliardi di spese in difesa va in una direzione, diciamo, abbastanza consolidata da Trump. La notizia qual è? Non è questa. La notizia è che la Russia, al di là di tutte le dichiarazioni di un riavvicinamento tra Trump e Putin, tra Mosca e Washington, Mosca oggi ha detto: per ora si tratta di retorica pura, ma se il budget militare americano verrà aumentato realmente, allora ci sarà la nostra reazione. Lo ha detto il capo della Commissione Estera della Duma, Leonid Slutsky. Tra l'altro, questa sera vi sarà alle 2 di notte in Italia il discorso del presidente Trump al Congresso americano. Dovrà chiarire anche con quale nuova proposta formulare per bloccare i cittadini di paesi considerati vicini al terrorismo, insomma, il blocco agli ingressi che è stato bocciato dalla giustizia americana. Su questo intanto si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Alessandro Platerotti. Finché c'è Trump c'è speranza, almeno questo è quello che spera la borsa, che da quando il nuovo presidente si è insediato continua a inseguire tutte le sue politiche interne e internazionali, tramutandole in investimenti di borsa. È stato così per le armi, è stato così per la sanità e i farmaci, ed è così ovviamente anche per le prigioni. L'argomento più divisivo e sicuramente più critico per Trump, ovvero la stretta sull'immigrazione illegale con la carcerazione degli immigrati clandestini, è infatti diventato una miniera d'oro proprio per chi? Per Wall Street. Street, che ha cominciato a comprare a man bassa i bond, i cosiddetti junk bond, bond spazzatura ad alto rischio, ad alto rendimento, dei grandi operatori carcerari americani. Forse non tutti sanno che in America le carceri federali sono spesso appaltate a operatori privati che le gestiscono per conto del governo. Ma che cosa sta succedendo? La febbre è veramente alta. Faccio alcuni esempi. Un investitore che aveva pagato $7,000 per comprare $100,000 di bond spazzatura della Willacy County in Texas, uno dei grandi operatori carcerari, vendendoli oggi realizzerebbe netto un profitto di $60,000. Quindi $7,000 per comprare, $60,000 da incassare. E questo non è l'unico caso. I bond emessi dalla Jones County Prison, secondo operatore carcerario americano, sono saltati negli ultimi giorni di 60 centesimi per ogni dollaro, quando costavano fino a poche settimane fa appena 12 centesimi. Ma la manna non è finita qui per gli operatori di borsa e soprattutto per chi guarda a Trump come occasione speculativa. Basti pensare che soltanto di bond carcerari ci sono 1,2 miliardi di dollari di obbligazioni circolanti sul mercato. Titoli subordinati, ma sicuramente subordinati a quello che riuscirà a fare Trump, ma per ora alla borsa non importa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ma parleremo di Trump non solo per l'attesa sull'intervento al Congresso per l'aumento delle spese militari annunciato per ora e la reazione russa, anche perché oggi è intervenuto il presidente del WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio. È chiaro che non potesse che essere contrario all'approccio protezionistico. Ha detto che la guerra commerciale sarebbe una catastrofe. Faccio notare che è vero, ne parleremo, avremo un approfondimento apposito sui rischi di una guerra commerciale, di nuove i rischi per un paese esportatore come l'Italia soprattutto, di una nuova guerra commerciale fatta a botte di dazi e barriere. Però l'Organizzazione Mondiale del Commercio in primis, come molti altri osservatori, dimenticano di ricordare che se questo ritorno al protezionismo ha molta presa nell'opinione pubblica è anche perché la globalizzazione di questi anni è stata in molti casi non regolata, e qui non è un problema di tariffe o dazi, il problema è di reciprocità. E quindi guardate cosa ha fatto l'Unione Europea nei confronti della Cina. La Cina applica ancora dazi, anche se li sta riducendo. L'Unione Europea ha sempre avuto una grossa difficoltà nel fare altrettanto, perché i paesi produttori del nord, o meglio trasformatori, che lavorano poco di manifattura, erano molto contrari. Invece, se tu sei H&M e fabbrichi tutto in Cina, è chiaro, o nel sud-est asiatico, è chiaro che hai poco interesse. Se tu invece sei un produttore che produce buona parte nel territorio, come l'Italia nella manifattura, in molti casi hai più interesse. Per cui va benissimo ragionare su una reazione che rischia di essere peggio del male che vuol curare, ma non ci si può dimenticare del male in sé, ossia che la sensazione, ed è più di una sensazione, che la globalizzazione sia stata così poco regolata, e i processi vanno regolati, da avvantaggiare solo alcuni, le multinazionali che pagano le tasse dove meglio credono, e svantaggiare molti altri, per esempio la base produttiva di alcuni paesi, penso all'Italia ma non solo. E ne parleremo invece dell'Italia adesso, perché al di là parleremo anche, perché oggi sul neoprotezionismi è intervenuto anche il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, convegno per i 100 anni dell'Unione Industriale di Napoli, ne parleremo nella seconda ora del programma. Emma Marcegaglia invece, nel corso del Business Europe, che è presidente di Business Europe, nel corso dell'Industry Day a Bruxelles, il giorno in cui si è dedicato all'industria manifatturiera europea, e anche di questo parleremo, ha detto: attenzione, il Trump è campione Trump è un campione del protezionismo, l'Unione Europea deve restare aperta e accelerare sugli accordi di libero scambio con Giappone e Mercosur, i mercati del Sud America. Per quello che riguarda la Commissione Europea e l'Industrial Day odierno, Commissione Europea ha detto: attenzione, non serve un nuovo piano europeo per l'industria, in quanto tutte le politiche europee integrano già le necessità del settore. E poi no al protezionismo. Venendo all'Italia invece, oggi Standard & Poor's stima che il nostro paese crescerà meno dell'1% quest'anno e l'anno prossimo. Pesano il settore bancario e l'incertezza politica. Per molti osservatori il settore bancario pesa più come incognita, pesa più anche dell'incertezza politica. Nel frattempo, come i nostri GR24 mi hanno già ricordato, l'Istat ha diffuso i dati provvisori dei prezzi al consumo a febbraio e continua a crescere l'inflazione al massimo da 4 anni all'1,5% e cresce in maniera non buona, come spieghiamo ormai da settimane. Cioè non cresce perché aumentino i consumi e aumentino quindi le spinte sui prezzi, ma cresce per fenomeni esterni, beni energetici, quindi anche trasporti, e quindi prezzo del petrolio non solo, dei gas e derivati, e eventi esterni, di nuovo il maltempo in tutto il centro Italia, di maltempo di gennaio, e i prezzi dell'ortofrutta che hanno fatto delle cose pazzesche. Cioè i rincari nella verdura in Italia a febbraio hanno fatto il più 37,3%, è l'aumento più alto mai registrato dei vegetali freschi in 20 anni. E quindi dalle serie storiche, dal gennaio del 97, e va a raddoppiare quasi già un dato altissimo che era quello di gennaio, più 20% il prezzo dell'ortofrutta, addirittura sul base mensile più 12,5%. In questo caso sono i prezzi della verdura più che della frutta in senso stretto, che è cresciuto del 2% rispetto appunto al febbraio 2016. Questo porta a un aumento del carrello della spesa del 3% come inflazione dei beni più comprati e maggior consumo, che è l'aumento più alto da 8 anni a questa parte. Ma ripeto, fosse dovuto a una spinta dei consumi, saremmo tutti contenti di un'inflazione buona che segnala che i consumi sono ripartiti, perché è ripartita l'attività economica e soprattutto la fiducia nel futuro, quindi uno anche che magari stava risparmiando spende un po' di più. Ma non è così, crescono solo per variabili esterne, quindi manca solo un altro balzo del petrolio e insomma, avremo la peggiore delle situazioni possibili sul fronte dell'inflazione. Allora l'industria invece a febbraio, la produzione industriale sale di un po' più 0,4% rispetto al meno 1,2% di gennaio. Segnalo poi oggi intervista su vari quotidiani al numero uno di Starbucks, Howard Schultz, dopo la polemica sulle palme. Adesso sicuramente la pubblicità è stata altissima, non so se fosse la pubblicità che voleva Starbucks. Poi sulle palme ognuno può pensarla come vuole. Lasciamo stare, dai. Gli architetti, ecco, dovrebbero anche collegarsi alla realtà. Va bene, non voglio parlare delle palme, però parliamo di Starbucks, che ha detto daremo lavoro a 350 persone. Ha parlato anche delle palme comunque Schultz, perché ha detto volevamo dare un contributo, alla fine piacerà. Milano sarà il negozio più grande d'Europa, costruiremo una vera fabbrica del caffè e un centro di panificazione con l'alleato italiano Princi. E va tutto bene quando arrivano i soldi e gli occupati, va tutto bene. Poi uno può chiedersi: ma perché Starbucks, colosso mondiale del caffè, viene a insegnare a noi come si fa il caffè con tutti? Perché qualche italiano non ha voluto aprire un negozio, o non ha le capacità, o non ha diciamo la linea per aprire un negozio analogo, no? Senso, è un ragionamento che abbiamo fatto già anni fa, però, nel senso che le dimensioni di impresa anche qui contano. Cioè non è colpa della Nestlé se ha lanciato Nespresso, forse è colpa più nostra che non abbiamo saputo intercettare certi processi, o forse non avevamo la forza economica finanziaria, ho capito, ma non si può dare la colpa agli altri se ti copiano e iniziano a vendere cialde in tutto il mondo dell'espresso e del cappuccino, che sono sempre ricollegati a Made in Italy, o se Starbucks apre davanti al Duomo un centro, tra l'altro con l'alleato italiano Princi, che per chi non lo sapesse Princi è una catena di panetterie anche di fascia alta a Milano. scommetto sull'Italia, sulla vostra capacità di attrarre società e capitali, ho visto il successo dell'Expo e la risurrezione di Milano. Oggi tra l'altro il premier Gentiloni era qua a Milano e poi lo faremo ascoltare, perché è andato a visitare la nuova sede di Microsoft, che è dentro la Feltrinelli, e quindi un edificio molto ampio, e ha detto: Gentiloni è un esempio che farà scuola anche l'iniziativa di Microsoft, cioè il fatto che vi siano aree molto grandi dedicate a studenti, a scuole, a momenti di incontro. Per quello che riguarda invece sempre Milano, è stata chiusa la prima fase del bando per l'area Expo, quattro richieste, e tra l'altro ha coinciso con la visita del Presidente del Consiglio a Milano. Per quello che riguarda l'area Expo, sono 480.000 metri quadri, anzi sono 250.000 aumentabili a 480.000 per quello che riguarda la disposizione finale. Allora, prima di arrivare all'intervista, continua anche il nostro viaggio con i grandi gruppi che si occupano di consumi, visto che commentavamo l'inflazione e oggi sarà la volta di Campari, che ha appena diffuso i dati. Ma dicevo, vorrei occuparmi, usando la, tra virgolette, la scusa, il pretesto dei 100 anni che festeggiava l'Unione Industriale di Napoli, del cosiddetto progetto di industria 4.0. se ne è molto discusso anche per quello che riguarda il nostro sud, il nostro mezzogiorno. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, dicevo, oggi in occasione dei 100 anni dell'Unione Industriale di Napoli è intervenuto con un videomessaggio anche il ministro Calenda, ha detto: guardate che il sud non è una riserva indiana, no all'assistenzialismo, nel nostro mezzogiorno si gioca la stessa scommessa che stiamo giocando al nord. Nel mezzogiorno le imprese che appartengono al cluster del 20%, le imprese che, per esempio le medie imprese, hanno livelli di produttività uguali a quelle del nord. Producono, sono efficienti, innovano, esportano moltissimo. Non sono diverse da quelle che sono localizzate nel nord. Dunque il problema non è oggi fare una gabbia, pensare che il sud possa essere considerato una riserva indiana dove chiudiamo e troviamo degli strumenti di assistenzialismo. Non è questa la scommessa. La scommessa che il sud gioca è la stessa che gioca il nord. Qual è la differenza? La differenza è che, essendo il gap molto più ampio, bisogna avere misure che abbiano un'intensità molto più forte. E dunque quali? Il nuovo credito d'imposta, che è stato rafforzato moltissimo per il mezzogiorno, per esempio i contratti di sviluppo che abbiamo rivisto e ristrutturato, sui quali ho messo 1,5 miliardi di euro, che consentono alle grandi imprese internazionali di venirsi a localizzare nel mezzogiorno con vantaggi importanti. Questi strumenti, che accentuano l'intensità delle politiche nazionali, funzionano bene, a patto che non si ragioni del sud come se fosse, come posso dire, un figlio di un minore. E a proposito degli strumenti, perché c'è il superammortamento, l'iperammortamento, cioè il 140 fino e poi il 240%, ma c'è anche, come ricordava Calenda, la parte che riguarda una maggiore intensità del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno. Ha toccato il tema anche il presidente Confindustria Boccia, che poi ha detto: sì, però per avere un'industria, un'economia 4.0, bisognerà arrivare anche a una pubblica amministrazione 4.0, non solo una fabbrica 4.0. E poi, citando il tema molto d'attualità dell'assenteismo, ripeto, a me non piace chiamarli furbetti del cartellino, sono ladri di lavoro, di prestazioni, ha detto Boccia, citando Gandhi, chi spreca ruba agli altri. Sentiamo al microfono la nostra Laura Viggiano. La legge di bilancio 2016 prevede degli strumenti molto interessanti che vanno proprio in linea di questa industria 4.0. La settimana scorsa il Senato ha approvato una maggiore intensità del credito d'imposta a investimenti nel Mezzogiorno, che è un altro elemento importantissimo che rende maggiore attrazione e attrattività, diciamo, gli investitori nel nostro Mezzogiorno. È evidente che accanto a questo, oltre a quello che occorre fare nelle fabbriche per cavalcare la quarta rivoluzione industriale, occorre forse una società 4.0, ed è il messaggio di oggi che mi sembra molto chiaro, e nei successivi eventi che l'Unione di Napoli realizza. L'idea di una Campania che può essere apripista di una questione industriale italiana, ma innanzitutto del Mezzogiorno, è un elemento importante. Di una Napoli che deve ritornare a essere capitale dell'industria del Mezzogiorno e capitale di pensiero e di progetto per il nostro Mezzogiorno. Occorre anche una pubblica amministrazione 4.0 e non solo una fabbrica 4.0. Quanto all'assenteismo, vogliamo solo ricordare, per sintetizzare una frase di Gandhi, chi spreca ruba gli altri. E ancora il ruolo, anche visto che parliamo di pubblica amministrazione, dentro la pubblica amministrazione c'è anche chiaramente il ruolo dell'istruzione. Dicevo, Boccia ha ricordato come dagli Atenei campani escano laureati di ottimo livello, anche ambiti dalle imprese. Abbiamo delle università eccellenti da cui escono giovani di grande qualità che attraggono e sono attratti da imprese che molte volte restano nel nostro Mezzogiorno proprio per la qualità dei giovani. Quindi si entra nelle periferie, si entra nelle università, si parla alla città e si costruisce un'idea di società attraverso un grande momento emozionale di storia, di tradizione e di futuro. I 100 anni dell'Unione Industriale di Napoli, che dimostrano e raccontano come sono importanti le tradizioni industriali del Mezzogiorno, un Mezzogiorno che non è affatto deserto industriale, ma che ha necessità di reagire insieme a tutto il paese. Allora, sì, giustamente mi chiedete, ma che cosa ha deciso il Senato sul credito d'imposta? Adesso ne abbiamo parlato. Comunque ha deciso che per le imprese che investono al sud, come ricordava il presidente di Confindustria Boccia, va il credito d'imposta dal 20 al 45% per le piccole imprese, dal 15 al 30% per le 35% addirittura per le medie, e dal 10 al 25% per le grandi imprese. E devo dire che Boccia, così concludiamo anche l'approfondimento sulla parte, diciamo, dell'industria 4.0 relativa al sud, è intervenuto anche sull'elemento politico e ha detto, insomma, i leader non pensino solo alla data del voto, ritornino ai fondamentali dell'economia. Il messaggio del segretario di partito è che il paese, diciamo, ha delle priorità. È importante parlare di elezioni e di riforma elettorale, ma è anche importante ritornare a parlare dei fondamentali dell'economia reale del paese. È un elemento complementare e non antitetico. Speriamo che l'agenda preveda anche questo secondo pilastro. Noi faremo in modo di ricordarlo a tutti. E poi devo dire che il presidente della giunta regionale campana, Vincenzo De Luca, invece, intervenuto al convegno appunto sui 100 anni dell'Unione Industriale, ha detto: attenzione, perché l'industria 4.0, e in questo era in controtendenza rispetto agli altri interventi, per attuare l'industria 4.0 ci vorranno 6-7 anni, e non pensate che porterà ad un aumento dell'occupazione, ci sarà un restringimento. E poi ha lanciato l'allarme sulla massa sociale drammatica di anche persone che non lavorano, che se non verrà governata diventerà crisi politica. Ora il tema che sostanzialmente l'innovazione informatica, chiamiamolo in senso lato, dentro l'industria abbia portato spesso anche a un restringimento della base occupazionale di quell'industria, è vero, e abbiamo ricordato la proposta arrivata da Bill Gates di addirittura tassare i robot, perché dice, se tu sostituisci lavoro manuale con dei robot, mentre il lavoro manuale viene tassato, tu non hai nessuna penalizzazione, ma nessuna tassazione a differenza del lavoro manuale. È vero, tutti questi ragionamenti però sul lavoro che si restringe una volta che arriva l'automazione, fermo restando che se lo fanno i tuoi concorrenti, devi farlo anche tu, se no esci dal mercato, ma non tiene conto del lavoro che si crea in altri campi, e cioè in chi sviluppa per esempio l'automazione, in chi sviluppa le reti informatiche, in chi sviluppa l'innovazione cosiddetta 4.0. È chiaro che tu puoi portare una riduzione del lavoro in quel settore o in quella fabbrica accettabile, a patto che non cambi o cresca, per meglio dire, l'occupazione complessiva. Non mi interessa sapere se è fatta di solo manifattura tradizionale, oppure essendo fatta la manifattura 4.0 vi saranno società esterne che forniscono servizi e soluzioni integrate. A me interessa che poi l'occupazione non cali, e anche la qualità di questa occupazione. Va bene, andiamo avanti. Dopo il metodo e la pubblicità parliamo di consumi e dell'andamento dei consumi italiani, sempre con grandi gruppi che stanno pubblicando in questi giorni i risultati del 2016. 349 238 6666 per SMS, WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Qui ad Olimpia sono nati i Giochi Olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui su Radio 24. Focus Economia. Something good. 17:40 minuti. Allora, vedo molti messaggi sull'industria 4.0. Sono tutti temi che affronteremo oggi. Parliamo per esempio del protezionismo con calma, quando non siamo sommersi dalla cronaca. Ripeto, se si prende come riferimento il singolo imprenditore, è chiaro che se i tuoi concorrenti vanno ad informatizzare, automatizzare e fare un salto al modello produttivo, tu devi più o meno adeguarti, perché sennò esci dal mercato come costi, come capacità anche di stare sui mercati di riferimento. Poi, se il ragionamento invece è: attenzione, ma l'industria 4.0 rischia di o l'informatizzazione spinta di questi anni ha ridotto la qualità dei posti di lavoro, bisogna prendere il dato aggregato, non solo quello sulla singola impresa che usando più automazione avrà ridotto l'occupazione specifica, ma bisogna sommare il dato con l'occupazione che si è creata in tutti quelli che lavorano, diciamo, nelle applicazioni per l'industria 4.0 in questo campo. Noi tutte le settimane portiamo una startup, sono nella maggior parte dei casi startup che si avvalgono proprio dei processi di informatizzazione. Allora, i consumi, vista l'inflazione di oggi, ne parliamo, abbiamo fatto, continuiamo a fare questo nostro viaggio tra chi ha il polso dei consumi del paese, l'abbiamo fatto con, mentre escono i dati, chiaramente, con Conad, con Italy. Oggi è la volta del gruppo Campari, che ha presentato appunto i conti e con cui vorremmo parlare però anche dei consumi italiani rispetto ai consumi europei. Quando un gruppo ha questa proiezione internazionale è chiaro che lo usiamo anche come raffronto. Grazie quindi per averci raggiunto in collegamento l'amministratore legato del gruppo Campari, Bob Kunz-Koncevitz. Buonasera. Buonasera. Allora, veniamo ai dati vostri, poi al ragionamento invece sui consumi complessivi del paese. Voi che pure operate in un settore appunto di largo consumo / vendita al dettaglio, avete avuto un utile netto che è rettificato, è cresciuto del 7% a quasi 200 milioni di euro, 198,6, vendite più 4%, 1 miliardo e 700 milioni, dividendo proposto a 0,045 euro per azione, stabile rispetto all'anno prima. Da questo punto di vista, questi dati, che sono chiaramente dati complessivi, consolidati, dove si sono sviluppati? Cioè, quali sono le aree di maggior crescita che avete registrato? Italia o paesi esteri? Prego. Beh, l'Italia è cresciuta, se togliamo fuori i vini fermi, di un per cento. È chiaro che la crescita maggiore è venuta fuori dall'Italia. Il nostro maggiore mercato principale sono gli Stati Uniti in questo momento. Dal punto di vista del portafoglio sono i nostri cosiddetti marchi prioritari globali che sono cresciuti di un 6,3%, Campari, Aperol, Skywild, Turkey, Grand Marnier e Appleton, e poi quelli regionali, le priorità regionali, nei quali abbiamo anche Averna, Frangelico, che sono altri marchi italiani che stanno crescendo a doppia cifra. La maggior parte della crescita è venuta da questi marchi nei mercati sviluppati. Invece abbiamo avuto una debolezza abbastanza marcata nei mercati in via di sviluppo, soprattutto sudamericani, il Brasile, anche in Africa e in Nigeria. Allora, visto che parliamo di un gruppo italiano, lei ricordava alcuni mercati di crescita a partire dagli Stati Uniti e due marchi, Aperol, che comunque ha fatto un più 18%, più 4,5% in Italia, crescita a doppia cifra in Germania, tripla cifra in Francia, e bene anche marchio Campari, un più 8,6%, quasi 11% in più in Italia. E poi voi ricordo che siete operate sia nel settore spirits, ma non solo, perché oltre appunto a Grand Marnier o i gin o i distillati, avete gli spumanti, Cinzano, Riccadonna, avete Sky Vodka e Wild Turkey, sempre sugli spirits, e poi Aperol, Campari, Cinzano, e avete anche bibite, penso a Oransoda e Lemon Soda. Avete deciso però di uscire in parte dal settore vino, avete venduto sia Selle Mosca in primo luogo che i vini cileni L'Apostol. Come mai riducete la vostra quota nel vino fermo, chiamiamolo così? Perché nel tempo non abbiamo trovato sinergie tra il mondo dei vini e i nostri spirits, la canalizzazione è diversa, il marketing è diverso, e alla fine abbiamo deciso di concentrarci su nostri spirits. Ecco, immagino che rientri in questa logica il fatto che, pur avendo venduto alcuni marchi, ripeto appunto Selle Mosca o i vini cileni, avete acquisito lo scorso 2 febbraio Bulldog London Dry Gin, che è un marchio inglese, pagherete quasi 51 milioni di euro più 3 milioni di debiti assunti in magazzino, 54 milioni di euro l'operazione. Quindi lei conferma il vostro interesse nel concentrarsi o sugli spirits oppure su, diciamo, tutto ciò che non è vino, che sono vini? Il nostro core business sono gli spirits, dunque le acquisizioni, guardando avanti, saranno focalizzate in quell'area. Ecco, voi avete distribuite e commercializzate questi prodotti in 190 paesi, avete 4.000 dipendenti con 18 siti produttivi, tra l'altro avete una vostra rete distributiva in 20 paesi. Sì. Come si giustifica questa crescita fortissima di due marchi importanti in Italia, perché sono italiani oltre che appartenere a un gruppo italiano? Mi riferisco a Aperol e Campari. Cioè, cos'è l'effetto spritz? I grossi trends nella nostra industria sono due. Da un lato sono i cocktail classici, prendiamo un Negroni, un americano, e da un altro lato sono quello che chiamiamo i cocktail più leggeri, che sono più facili da bere, come l'Aperol Spritz. Mm-hmm. O Campari e tonica. Ma dunque, in Francia una crescita a tre cifre in Francia non è da poco, eh? Non è da poco, ci stiamo lavorando da 6 anni. Ma e cosa l'ha trainata? Il marchio Aperol oltre che il marchio Campari? Ma no, la crescita a tre cifre è sul marchio Aperol. Campari è tornato a crescere, ma giustamente a un altro ritmo. E poi abbiamo avuto una fortissima crescita sia di Glen Grant che anche delle sfumate Riccadonna, ma quest'ultimo va abbinato con Aperol. Quindi lei ci conferma che anche voi vedete un grande risveglio delle cosiddette bolle italiane, per quello che avete in primo luogo Cinzano e Riccadonna? All'estero. All'estero, non in Italia. Sì, ma soprattutto nell'area del Prosecco. Nell'area del Prosecco. Senta, per quello che riguarda l'andamento dei consumi, nel senso che voi, come altri soggetti che prima ricordavo, avete anche il polso diretto di come si muovono i consumi all'interno del paese, qui mi riferisco solo all'Italia, che fotografia avete scattato nel 2016 su questo? Cioè, abbiamo visto alcuni dire beh, c'è stato un po' di risveglio nei consumi, e soprattutto che indicazioni avete per i primi mesi del 2017? Dopo 7-8 anni diciamo di decrescita, l'anno scorso il mercato italiano è tornato positivo, a un livello abbastanza basso ma positivo. Non ho dati ancora di consumi per quest'anno, è troppo presto. Ma a livello geografico notate differenze oppure c'è stata una crescita più o meno generalizzata, pur su livelli bassi? Ma in genere il centro-nord è più forte del sud, ma da un altro lato stiamo anche estendendo i nostri aperitivi nel sud, soprattutto con l'Aperol Spritz, dunque è un dato un po' misto. E avete altri investimenti previsti per quest'anno? Ma io dico sempre, fare acquisizioni non è come andare al supermercato, è più come uno va al mercato all'aperto e va a vedere quello che c'è in stagione. Però insomma, una domanda che mi viene anche suggerita dagli ascoltatori al 349-238-6666, insomma, avete la sensazione, perlomeno stando sulla parte euro-europea, che gli altri paesi crescano come consumi interni? Perché è chiaro che insomma non stiamo parlando di consumi di prima necessità, almeno che uno sia un etilista, ma insomma che ci sia maggior dinamismo nei consumi di altri paesi anche vicini a noi? Ma noi nei paesi, diciamo quello che chiamiamo l'Europa del nord e centrale e dell'est, siamo cresciuti a doppia cifra, 11,5% a livello organico. Quindi, in Italia dell'1%. Quindi questa siamo del sud Europa. Ma questo vale per l'Italia o anche per tutto il resto del sud Europa? Anche il resto del sud Europa. Quindi una difficoltà nei consumi che dal vostro osservatorio vedete in Spagna, Italia, Portogallo? La Spagna va già molto meglio. Va già meglio? Sì. Quindi nel sud Europa chi è rimasto, mi scusi? Ma guarda, i Balcani, la Grecia. E l'Italia? Sì. Vabbè, in bocca al lupo, no? Non sono notizie che proprio ci confortino nel vedere che anche la Spagna sta dimostrando un dinamismo dei consumi più alto del nostro, ma devo dire che nel PIL questo si vede, e non solo nel PIL. Grazie all'amministratore delegato del gruppo Campari, Bob Kunz Koncevic. Buona serata. Pour me a taste of something good. Adesso devo andare sul traffico e poi do qualche risposta anche sull'industria 4.0, prima dei mercati e prima del tema protezionismo / Trump. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, per quello che riguarda la borsa, sì, poi arrivo anche all'industria 4.0, così lo colleghiamo anche al tema del protezionismo, non l'impressionismo, che è una cosa bella, almeno a chi piace. Andiamo sulla borsa, dicevo, invariato Milano, Parigi più 0,30, Francoforte più 0,1, Londra più 0,14%, Dow Jones invariato, euro su dollaro 1,06. Devo dire poco mossa oggi la borsa, Banco BPM più 2,70, Saipem più 2,30, UniCredit più 1,5 come Moncler, Eni e Leonardo più 1,1, CDA dell'Eni oggi, ma i dati arriveranno domani. Mentre tra chi perde, anche qui cali molto contenuti, il 2% lo cede Exor, il 2,1% appunto Campari, e Hugh Saint Apporté meno 1,70, Tenaris meno 1,5%, Generali meno 1,30, Brembo meno 1 come Italgas e Ferrari. Migliori e peggiori, di May Group più 20%, Bastoggi più 16%, Industria e Innovazione più 14%, Sogefi più 12%, Dada più 7,5%, peggiori, EMS meno 9,70%, Gequity meno 6,26%, Casta Diva meno 5,60%, Visibilia meno 5,30%. Allora, vedo molte riflessioni sull'industria 4.0. Allora, devo leggere due agenzie sui dati fiscali e poi a questo punto rimando la risposta dopo il GR24. Sono appena uscite due agenzie del Ministero Economia e Finanze sull'imposta, però l'anno d'imposta 2015. Allora, leggo assieme a voi il reddito complessivo, dunque sono 40.800.000 i contribuenti IRPEF, per un totale di 833 miliardi di euro, il valore medio delle dichiarazioni è di 20.690 euro, per quello che riguarda 10 milioni di soggetti, dunque 12.200.000 soggetti che non versano l'IRPEF, sono circa 10 milioni di soggetti che hanno un'imposta netta pari a zero, per cui hanno o sono nella no tax area o beneficiano anche del bonus di 80 euro. Nei 10 milioni rientrano, spiega il MEF, contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione e quelli la cui imposta lorda si azzera per via delle detrazioni fiscali. Allora, vado in chiusura, poi parliamo anche di industria 4.0 e protezionismo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, GR24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele da renetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, l'industria 4.0, visto che molti mi stanno scrivendo e se ne è discusso molto oggi in occasione dei 100 anni degli industriali di Napoli, è un tema che affrontammo anche molto quando venne lanciato dall'allora Presidente del Consiglio Renzi. è un tema che riguarda, intanto il termine 4.0 non ha a che fare con un modello, diciamo, di software, ma deriva, usando un linguaggio da informatica, dal fatto che siamo di fronte, su questo non ci sono dubbi di sorta, alla quarta rivoluzione industriale, che è una rivoluzione industriale che sta facendo morti e feriti come tutte le rivoluzioni industriali, e che sta ridefinendo logiche, paradigmi e quant'altro, con appunto anche elementi di sofferenza vere e proprie. Però, così come continuare, diciamo, a puntare sul calesse invece che sulla, o sulla forza umana invece che sulla macchina a vapore, non aveva nessun senso, non ha molto senso dire ma a me non piace, è un'evoluzione in corso, il punto è come reagisci e come rispondi. Allora 4.0 sta in senso generale per digitalizzazione dell'industria italiana. Faccio notare che il piano che prevede poi nel concreto il andare oltre il superammortamento del 140% e introdurre un iperammortamento fino al 250% di detrazione sulla spesa effettuata sugli investimenti in tecnologie o in consumi energetici per migliorare la parte tecnologica o in consumo energetico, così come il credito dell'imposta per gli investimenti incrementali sul fronte della ricerca e sviluppo, che appunto è passata l'aliquota dal 25 al 50% con anche il massimale per ogni singolo imprenditore, che è passato da 5 milioni a 20 milioni, e poi insomma tutto un insieme di altre innovazioni. Qual è l'obiettivo? È far fare il salto complessivo non solo a chi già si è ammodernato, usiamo questo termine, ed è già ben presente nei mercati esteri e i dati dell'export lo dimostrano, ma tutto il sistema di, o la maggior parte possibile del sistema di impresa italiana. Questo vuol dire un processo industriale, insomma, che va verso un'automazione forte, ancora più forte, il famoso Internet of Things, cioè la capacità anche degli oggetti, di non essere solo oggetti, ma di essere connessi, di dialogare con altre parti e non solo dentro la fabbrica, quindi la famosa interconnessione, l'utilizzo di big data e open data, quindi la parte che riguarda ricerca e sviluppo utilizzando la massa di dati e di notizie che sono in circolazione, il cloud computing, cioè la condivisione anche delle informazioni, tutta questa cosa enorme, per esigenza di sintesi furono i tedeschi, se non ricordo male, a coniarlo per primo come termine, va sotto il nome di industria 4.0, cioè la nuova rivoluzione industriale. Il tema qual è? È questa nuova rivoluzione industriale, al di là del cambiare temporaneamente anche i fattori occupazionali, andrà poi a almeno mantenere, possibilmente a crescere, i posti di lavoro, o creerà una distruzione ulteriore di posti di lavoro? Quello che si è detto prima è, per avere un dato o fare un calcolo ottimale, non puoi solo guardare gli addetti al comparto industria in senso stretto, che sicuramente e probabilmente saranno in calo, devi vedere come si muove il comparto servizi più avanzati, cioè chi fornisce questi servizi poi all'industria che vuole digitalizzarsi, vedere se il numero di startup rispetto alla riduzione di posti di lavoro nell'industria classica va a riequilibrare o va anche a aumentare, diciamo, l'occupazione. Che poi uno mi dica, ma questo vuol dire che non vi sarà più, diciamo, il dipendente, l'operaio che inizia a lavorare in un'industria e arriva fino alla pensione in quell'industria? Questo sì, che cambino le dinamiche del mondo del lavoro, assolutamente, che possa essere anche peggio di prima in un mondo più protetto fino, diciamo, a fine anni 90, è anche questo vero. Dopodiché, una volta che te lo sei detto, che ce lo siamo detti, non ha risolto una mazza, nel senso che se l'evoluzione è questa, tu devi star dentro e cercare appunto di tenere assieme le diverse esigenze, ma non puoi dire no, io voglio restare agli anni 80 perché lì non c'era la concorrenza dei paesi in via di sviluppo, non c'era la globalizzazione che altri benefici ha portato e via così. Il discorso passatista, quando fai impresa, vuol dire solo diventare passato, uscire, diciamo, dalla capacità di competere. E mi ricollego a questo e ne vorrei parlare appunto con Fabio Sdogati e Mario Platero. Mario Platero, perché adesso parleremo di Trump, del suo intervento di questa notte, della reazione statunitense, e Fabio Sdogati perché con Sdogati vorrei affrontare appunto il tema anche del protezionismo. Perché dici si lega questo? Perché è chiaro che la reazione di pancia in questo momento è anche una reazione di pancia protezionistica alle sfide che pone la globalizzazione, che vuole dire anche sfide negative. Mario Pratero, buonasera, corrispondente. Buonasera Sebastiano. Poi parleremo del PIL americano, vabbè, più 1,9% sotto le attese, più 3,5% nei trimestri precedenti, va bene. Vanno bene però, sì, i consumi, ho visto negli Stati Uniti più 3%, e la fiducia dei consumatori a febbraio è salita ai massimi dal 2001 e questo farà contento Trump, al 114,8. Sì. Fiducia altissima anche nelle sacche regionali in California e addirittura a livelli che non hanno mai visto da molti decenni. Attenzione, perché poi nell'analisi della fiducia dei consumatori si vede poi che ci sono i repubblicani, sono i democratici. Per i repubblicani in California è aumentata al 90%, una cosa che non si era mai vista, quindi c'è una base politica dietro Trump che forse è un po' più ampia di quello che ci si poteva aspettare. E questo riguarda, diciamo, la fiducia del paese. Mi voglio ricollegare, e non come Pindaro, diciamo, al tema del protezionismo che adesso affronteremo. Un inciso, sì, però te lo chiedo sui rapporti con Mosca. Sì, con Mosca, sì, perché insomma oggi i russi hanno detto: speriamo che siano solo annunci, ma se l'America spenderà 54 miliardi in più in difesa, la nostra reazione sarà immediata. Sì, allora diciamo, l'America, i repubblicani da sempre hanno avuto una politica di spesa più aggressiva nel settore difesa. Attenzione, che settore difesa non vuol dire cannoni, missili, soldati, vuol dire ricerca, vuol dire progetti sperimentali. Ricorderai che Internet è nato da un progetto di ricerca del Pentagono negli anni 50, dunque ci sono degli investimenti molto importanti per il futuro degli Stati Uniti d'America, con degli indotti poi su settori che non sono soltanto quello dell'armamento tradizionale, ma quello delle telecomunicazioni, quello dei trasporti e così via, così via. E la cosa più interessante, secondo me, di questo aumento di spesa, a parte i russi che appunto rispondono, c'è questo, diciamo, rapporto ambiguo in questo momento con Putin, perché da una parte Trump dice voglio fare amicizia con lui, dall'altra però dice beh, non so se poi saremo davvero amici, per cui dopo l'uscita soprattutto del suo capo della sicurezza nazionale, ecco, c'è stato un po' un raffreddamento. Però l'aspetto più interessante, parlando di questa spesa della difesa, è che la percentuale rispetto al PIL della difesa americana sale, che è già al 3,6% del PIL, quindi molto al di sopra di quel 2% che viene richiesto a tutti i membri della NATO, la Germania per dirti all'1,2%, l'Italia a meno dell'1%. E l'America insiste, dice dovete investire, dovete arrivare a questo 2%. Ora l'America improvvisamente passa dal 3,6 al 3,9%, quindi ci sarà un'ulteriore pressione nei confronti degli europei per dire spendete di più. E ti dirò, caro Sebastiano, che secondo me questa non è poi una cosa così negativa, perché se noi potessimo trovare il modo in Europa per poter spendere un po' di più, per fare un po' di politica fiscale espansiva, perché di nuovo anche in Europa molte di queste spese non sono nel settore tradizionale della difesa, ma sono in settori di comunicazione, di settori avanzati e così via, ma forse non sarebbe neanche una cattiva idea. Vabbè, guarda, parli con uno che ha accusato tutti i giorni di essere keynesiano, cioè che l'Europa, per esempio, io anche senza arrivare alla difesa avrei fatto e continuiamo a dire qualche spesa in infrastrutture in più a livello europeo, ma non voglio tornare sul tema di una Germania che non ci sente ed è sorda. No, infatti il problema è lì, hai ragione. Beh, sai, capisci, negli Stati Uniti non avete Berlino. Allora, dopo il traffico, commercio. A proposito di questo, proprio perché citavi Berlino, magari sarà utile ricordare, prima di sentire le posizioni americane e quelle di Sdogati, che cosa capitò l'ultima volta nella storia che abbiamo visto una reazione veramente protezionistica come effetto di una crisi che era una crisi in primo luogo finanziaria. È ovvio che stiamo parlando del 1929, e che cosa è successo non solo agli Stati Uniti ma anche alla Germania nemmeno una decina di anni dopo, proprio 4 anni. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, nel 1929, dopo i primi crolli pesantissimi, 28 e 29 di Wall Street, gli Stati Uniti cercano di difendere la loro produzione interna, rimpatriano massicciamente tutti i crediti erogati all'estero e mettono in ginocchio la Germania, che era appena uscita dalla superinflazione degli anni 20, 21 e 22, e anche l'Austria, oltre che l'Inghilterra. Poi nel 1930 applicano un'altra tariffa doganale, si chiama Harveys Mute, che aumenta tutti i diritti al 50% e inasprisce il protezionismo e induce gli altri stati, perché questo è il piccolo problema del protezionismo, che se tu alzi una barriera, io per contro te ne alzo un'altra. Allora, tutti aumentano i dazi e i limiti alle importazioni, anche quando questi stati avevano bisogno di estinguere i propri debiti attraverso l'export, ma non c'entra. L'America Latina è la prima a essere colpita, tant'è che a dicembre del 29 Argentina e Uruguay abbandonano il corso del legame della moneta con l'oro e svalutano la moneta per dare forza all'export, un po' quello che pensano quelli che amano il ritorno alla lira. Nel 31 anche l'economia europea crolla, falliscono le strutture bancarie, solo l'Unione Sovietica, che era chiusa l'economia di mercato, si salva. Germania e Francia mettono sotto controllo il commercio, impongono quote sulle importazioni, introducono quote di permuta diretta con i partner commerciali. Nel 31 la Gran Bretagna impone dazi del 50% su 23 diverse categorie. Conseguenza, dal punto di vista commerciale, il valore del commercio mondiale crolla del 60% tra il 1929 e il 1933. Il volume degli scambi crolla del 25%. E la crisi colpisce, a quel punto si blocca il commercio, si blocca anche l'economia. Un lavoratore su quattro negli Stati Uniti e due lavoratori su cinque in Germania. Ultima conseguenza, ma non da trascurare, il Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler aveva preso il 3% alle elezioni del 28, prende lo 0,8% alle elezioni del 29-30. Dopo questo blocco del commercio e l'esplosione della disoccupazione in Germania, non l'inflazione, la disoccupazione, dovrebbe ricordarselo Angela Merkel e Weidmann e Schäuble, non è l'inflazione che porta al nazismo, è la disoccupazione. Il Partito Nazionalsocialista, con una disoccupazione dilagante in tutta la Germania, prende il 18%, cioè dallo 0,8 va al 18%. E questa è la storia, non sono opinioni. Allora, professor Sdogati, buonasera innanzitutto. Anche buonasera a lei. Lei appunto insegna al Politecnico di Milano e si occupa proprio di commercio internazionale. Mario Platero, volevo concludere la tua parte su Trump. Allora, è vero che gli Stati Uniti esportano poco, non sono così competitivi, ma c'è un legame tra i timori di questa quarta rivoluzione industriale, il fatto che appunto la digitalizzazione, l'automazione rischi di cancellare posti di lavoro al netto di quelli che crea nelle fabbriche o nelle società che si occupano di questo, e questa risposta di pancia, a mio avviso anche un po' ignorante, di Trump sul protezionismo? Ma vedi, Sebastiano, tocchi un punto chiave, perché, pensaci, è molto più facile, se vuoi dire è colpa della concorrenza, quelli che esportano i posti di lavoro, voi perdete i posti, chiudiamo le frontiere e rimettiamo tutto a posto, che dire invece è come blocchiamo la tecnologia, perché il vero problema nel ridimensionamento della forza lavoro, come dicevi, viene dalla rivoluzione digitale, dall'automatizzazione, e sarà sempre più così. Ci sono ormai, per dire, nel nostro mestiere, nel giornalismo, ci sono dei computer che con delle operazioni di intelligenza artificiale scrivono interi articoli prendendo informazioni che sono disponibili su internet. Quindi è una sfida importante, ma oggi è più facile parlare di commercio perché, come dicevi te, è più facile perché si parla alla pancia. E allora cosa vuol fare Trump? Questa è la cosa più interessante. Diciamo, lui questa sera io credo che alla fine si limiterà a parlare di fair trade, cioè la linea di Trump non è smantelliamo i commerci liberi. La linea di Trump dice, ma scusami, io per esempio col Canada ho un disavanzo di, non so, di 20, di 12, 12, 14 miliardi, non mi ricordo, col Messico ce l'ho di 40, di 50, quindi c'è qualcosa che non va, bisogna riequilibrare. E allora ecco che stanno pensando di mettere una tariffa del 20% sulle esportazioni in arrivo dal Messico, che tra l'altro servirà non solo a finanziare in parte il muro, ma a finanziare anche una parte dei tagli fiscali che vogliono fare. Mm-hmm. Quindi ci sono delle cose. Però la cosa più pericolosa è un'altra, cioè c'è una squadra a Washington che è stata organizzata nel contesto degli US Trade Representative, che è il capo negoziatore commerciale americano, che ha un rango di ambasciatore, quindi lavora direttamente col presidente, per dirti è il personaggio che ha negoziato il TPP, il personaggio che negoziava è Michael Froman, era l'ultimo, insomma un personaggio molto molto in gamba. Ecco, da quell'ufficio sono partite delle richieste per capire come si possono aggirare certe barriere all'interno del WTO, la World Trade Organization, che impedisce l'imposizione di tariffe unilaterali. Cioè se tu la imponi, interviene il WTO e ti fa una punizione, perché dice tu ti sei mosso fuori dalle regole. Tu puoi fare un ricorso al WTO, possono esserci non so, richieste di tariffe, countervailing, insomma ci sono una serie di tecnicismi. Quello che stanno facendo gli americani è di muoversi al di fuori, di trovare dei cosiddetti loopholes per poter fare questo. Cosa succede? Due problemi. Primo, la WTO l'hanno voluta loro, e sono gli americani che hanno costituito l'ordine multilaterale. Il WTO era la terza gamba delle tre grandi organizzazioni nate a Bretton Woods, cioè Fondo Monetario, Banca Mondiale e Organizzazione per il Commercio. Siccome il commercio è la cosa più delicata, è nata soltanto negli anni 90. Ma io ricordo per esempio i vertici, l'Uruguay Round, quando c'era come segretario al commercio Malcolm Brogdon. Ma finché gli faceva comodo, il tuo ragionamento non fa una grinza, Mario, finché quindi, faceva comodo. La cosa, è quella cosa che lui in qualche modo rischia di minare alla base un sistema multilaterale che poggia su dei guardiani di questo sistema, poi possono funzionare meglio, peggio, questo si può vedere. Detto tutto questo, io non credo che nell'interesse dell'America oggi sia di fare delle politiche aggressive tipo quelle che abbiamo visto negli anni 20-30, cioè c'è molto parlare, c'è molta, come dire, retorica roboante, se tu senti Trump, no, dice ecco abbiamo poi fatto. Tu dici nel concreto, quando questo precipiterà su azioni concrete, saranno molto più cauti. Io invece con Sdogati inizio a ragionare, perché poi vorrei avere anche altri economisti nei prossimi giorni. E qualcuno mi dice, ma come, gli anni 30 in due minuti non è un po' superficiale, cosa faccio, una lezione? Ci sono dei bellissimi libri, anche storici, andate su sussidiario.net, c'è un bell'articolo di 4 giorni fa di Giulio Sapelli che cita proprio i libri che hanno studiato l'economia pre-nazismo, l'economia degli anni 30, l'economia e il ruolo che ha avuto l'economia e la crisi economica nell'avvento del nazismo. Attenzione, perché poi si è ammantato di ideologia razzariana, non razzariana. 2 anni prima della crisi del 29, della reazione protezionistica, Hitler becca uno dei minimi, dei voti minimi storici, 0,8-1,2%, cioè è insignificante ancora nel panorama politico tedesco. Però non è che possa fare la lezione storia in diretta. Professor Sdogati, la risposta protezionistica è una risposta facile, lo diceva anche Mario Platero, di pancia, non c'è bisogno di pensarci molto, trovi un capro espiatorio, è colpa degli altri, non siamo noi che siamo poco competitivi, è colpa degli altri. Però mi faccio fare l'avvocato del diavolo per iniziare questo colloquio. C'è stato forse qualche errore anche nel WTO in questi anni nella gestione, diciamo, dell'aumento degli scambi commerciali, oppure no? Oppure il problema sono solo le inefficienze di ognuno di noi che non vuoi ammettere, vuoi scaricarle su appunto fenomeni esterni? Ma allora, ovviamente lei ha ragione, questo è un tema enorme e bene fa a sviluppare la discussione su più giornate. Il mio punto di partenza, perché io sono keynesiano, è che questa situazione è nata perché quelle che io, anche nella sua trasmissione, ho chiamato le belgi universali dei bilanci in pareggio, hanno generato. Cioè, capire la genesi delle cose aiuta sempre poi molto. E qui c'è un parallelismo con gli anni 30, perché anche lì le vestali dei bilanci dissero no, a Washington come a Berlino, la cosa importante è tenere sotto controllo i conti pubblici, tenere sotto controllo l'inflazione, così esplose la disoccupazione, detta male. Ora, noi come europei, no, da chi era il governo nel 2008 a chi c'è arrivato più tardi, sappiamo che queste persone hanno delle responsabilità enormi, perché hanno bloccato l'economia occidentale. Non sto dicendo che hanno creato la crisi, perché non è vero, probabilmente, no? Probabilmente la crisi è un fatto puramente di mercati finanziari, ma non importa. Il punto è che quando l'economia tira, il commercio internazionale cresce e nessuno ha voglia di ridurne il volume, la qualità e la quantità. Allora, la recessione è il primo problema, che è il problema del Brexit. Non si può parlare di Brexit senza andare a guardare cosa è successo al costo del lavoro in Gran Bretagna. Tra il 2008 e il 2015 il costo del lavoro in Gran Bretagna è andato quasi come quello in Grecia, cioè all'inferno. Mm-hmm. Allora, questa è la prima cosa. Noi eravamo sereni, io compreso, perché? Perché negli Stati Uniti c'era un presidente decoroso, il quale non ha mai posto un problema di voi fate politiche fiscali restrittive, adesso le faccio anch'io così imparate. No, ha fatto un accordo con la Cina, si sono messi a spendere in disavanzo sia gli americani che i cinesi e per un po' abbiamo tirato avanti. Adesso però, non voglio essere lungo, però qui c'è un salto di qualità enorme, che a me fa dire una cosa di una grande gravità. E dica questo e poi dopodomani la riavremo, mi interessa, me la dica. Vabbè, c'era una volta l'America, e noi abbiamo fatto un salto di qualità. Non c'è più, con Trump, quell'America a cui eravamo abituati, ma anche quella del peggior Bush, anche quella di Reagan, anche quella di Carter, quell'America che era punto di stabilità, luogo di coerenza e luogo di razionalità. Mm-hmm. Nei rapporti internazionali. Allora, questo noi l'abbiamo perso. Sdogati, torneremo con lei, così come da una risposta, ma non ha mai detto di parola un austriaco, immagino un Van Hayek, un epigono di Van Hayek o quant'altro. No, ma ci mancherebbe, avremo e ospiteremo vari punti di vista. Mi sembra un punto cruciale quello che ha appena toccato Sdogati, cioè, diciamola così, prima noi facevamo queste politiche folli, tedesco-centriche, recessive, ma poi c'era l'America che continuava a alimentare. Adesso che l'America si è messa a fare politiche anche più, diciamo, legate e protezionistiche di noi e legate, diciamo, a un calcolo di puri interessi americani, rischiamo di restare col cerino in mano. Intanto grazie a Fabio Sdogati, oltre che a Mario Platero. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata. Continuerà comunque il nostro viaggio sull'analisi del protezionismo, anche con i pro e anche come reazione delle volte, se momentanea, a fenomeni non gestiti, ma le sue conseguenze nel medio termine. Radio 24, libera la voglia di fare.